Good morning, Radio Kabul! Salut, nerucimi, Respublik Svobodny, splatila na veki, velika ja roz. Milan, bolševiko! Zostani volje naroda. Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Sovietski Sajus, slavsia Vecislav. Comunista bolscevico, Milan Setung, Setung, Setung. Radio Kabul. Družbi naroda, vladioš di aplos. Stalin, Lenin, Milan. Vai con l'armata rossa! Piegati al sistema che non siete altro! Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, a chiudere questa settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo Ciao, fino Milan. Alle 11. Ti ho visto ieri per la prima volta in diretta. Devo dire che sei proprio un bel ragazzetto. Ciao. Vabbè, quelli che iniziano così di solito sono preoccupantissimi in realtà nel finale di messaggio, però vabbè. Ragazzetto, Ale, siamo qui con Carmelo Lauricella oggi in regia. Eccolo là, era ovvio, era scontato. L'uomo più autoincensante del mondo. Insieme a te c'è Laura Faggin lì. E saluto la redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Saluto anche il comandante general Mario Calabresi, comandante bolscevico. Niente, dobbiamo cambiarlo, ma non arriva. Buongiorno. Non arriva niente. Buongiorno. È arrivato. Tutti. C'è anche Menshevico. Ogni venerdì ha la sua pena. Sì, il comandante generale. No, ma quale pena? Assolutamente. Grazie di essere qui. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp audio, e chiamateci invece all'800-24-0024. Ale, Carmelo, partiamo con i nostri temi. Enthusiasm about the future. Sai che, Mario, leggevo, tutti i sondaggi dicono che un italiano su due non è pronto a tornare nei locali, ristoranti, bar, per cui tanto vorrei chiedere tu cosa farai da lunedì. Adesso c'è questo paradosso per cui il rischio è che si possa riaprire ma mancheranno i clienti, nel senso che faranno un po' fatica a riabituarsi all'idea di dare fiducia a questo nuovo mondo in era coronavirus. Tu che fai? Vai al ristorante col plexiglass? No. Io sono faccio parte di quel 50% degli italiani che preferisce aspettare un momento. Te la dico così, credo che se anche si riaprisse tutto, se domani mattina si dice se riapriamo anche gli alberghi, tutte le strutture turistiche, il problema è proprio quello, il problema è chi ci va o chi viene. Sappiamo che chi viene da fuori in questo momento non esiste. Il punto è che non è avere fiducia nelle misure che attua chi apre il ristorante o il bar, perché se ti dico questo, l'unico motivo per cui mi verrebbe da andare è per solidarietà con il barista o con il ristoratore. Il punto è, finché io non ho la sensazione che ci siano degli strumenti di test, di tracciamento, che ci mettono in sicurezza, per cui tu non esci e vai al bar ed è un terno all'otto perché ti levi la mascherina e prendi il caffè e non sai, ok, c'è uno a un metro che chiacchiera, ha levato la mascherina e sta prendendo il caffè anche lui, ma se non c'è tempismo e non c'è controllo e rientriamo, vediamo tanti esempi di paesi che fanno avanti e indietro, stop and go, e che richiudono. Noi parliamo sempre dei più noti, ma non so, l'altro giorno leggevo che il Libano aveva riaperto le attività e adesso ha richiuso tutto. E poi l'ha chiuso. Perché salutiamo Beirut, tra l'altro. Sai che ieri un ascoltatore ci ha scritto dicendo, mandato un audio dicendo: guardate che vi ascoltano molti a Beirut, in diretta, bello. Molti che sanno. I veleni non ci sono mai stato. No, bellissimo. Per dire che giustamente la gente ha un po' di timore prima di riacquistare, cioè, la fiducia. Posso dirti, è sano e giusto che la gente abbia timore, perché se non avesse timore, certo, l'epidemia ripartirebbe. Da un lato, sai, noi non sappiamo se, non ci sono ancora evidenze scientifiche che ci dicono se questo virus sta veramente rallentando, indebolendosi, l'estate ci può aiutare, non lo sappiamo. Non resta che sperarlo e pensare di fare un'estate più simile a quella del passato possibile. Detto questo, secondo me ci vogliono delle... bisognerebbe poter uscire in sicurezza. Sai cosa mi colpisce? Che in tutti i numeri che si sono visti di una manovra immensa, 55 miliardi, un investimento forte sulla rete di controllo, cioè noi in Lombardia siamo al punto che ieri vedevo che un Rotary di Bergamo ha raccolto i soldi, più di mezzo milione di euro, per comprare sul mercato i reagenti per fare i tamponi di un ospedale di Bergamo e di un ASL e delle macchine per raddoppiare il numero di tamponi che si fanno ogni giorno. Ma lo deve fare il Rotary? Ma stiamo spendendo una quantità di soldi pazzesca. Ma perché non si fanno i test a tutti? La gente questo, segnala che è malata, eccetera, è eccetera. È grande tema. Sai, per esempio, le cosa leggevo? Aspetta, ma come si fa? Oggi, per esempio, leggevo che ci sono alcune aziende, leggevo sul giornale la questione dell'ATM, cioè i trasporti milanesi. Se tu fai il test, magari questi test non sono affidabili al 100%, magari trovi uno che è positivo ma asintomatico, ma a quel punto lo devi mettere in quarantena, non può più, certo, prendere servizio. Cioè il mio timore, non sto parlando adesso dell'ATM, sto parlando in generale, il mio timore è che non si vogliano anche fare tanti test per non scoprire situazioni che poi ti mettono in difficoltà. Cioè dici, come faccio adesso a gestirla se devo, che ne so, togliere 100 lavoratori dal servizio? E quindi si continua con questa situazione un po' così, un po' paradossale, per cui un po' si fa e un po' no. Certo, c'è da dire che a questo punto tu capisci anche molti ristoratori che dicono con queste condizioni, sì, non apriamo, perché io ne conosco, tra l'altro, più d'uno, chissà se arrivano i ristoratori, che di gente che ha un bar. Il bar dove prendo io di solito il caffè la mattina, li ho visti ieri, li ho incrociati per strada e mi hanno detto: noi al momento non riapriamo perché riaprire abbiamo tutti i costi della riapertura, però i guadagni con questa situazione, questa incertezza, sono probabilmente troppo pochi per riuscire a farcela. Allora preferiamo aspettare, loro sperano e aspettano nella possibilità, per esempio, dei tavolini fuori. Si dice che si può raddoppiare lo spazio, dove mettere, non so se è raddoppiare la parola giusta, comunque aumentare lo spazio dove poter mettere i tavolini fuori. Allora dice, sai, con i tavoli fuori, spaziandoli bene, allora lì facciamo il servizio al tavolo, possiamo pensare di partire. Allora queste qui sono cose che ti mettono in un certo senso a tuo agio. Io in un tavolino fuori mi siederei, se c'è la distanza e mi portano un caffè. È l'idea di rientrare dentro un ambiente chiuso e stare lì parecchio tempo. Sì. Senti, Mario, io tra poco voglio parlare di una tua iniziativa, perché teniamola lì tra un attimo, perché è un'iniziativa che non è la consueta con cui abbiamo fatto l'abitudine, newsletter del venerdì. C'è anche un qualcosa in più e oggi ce lo potrei dire, però ti voglio presentare due ospiti per raccontare una vicenda che intercetta la questione del coronavirus, che però intercetta anche uno dei problemi che in Italia ci sono sempre, e cioè quelli degli abusi edilizi, tema di cui ci occupiamo spesso. In Campania ci sono 32.000 edifici abusivi che vanno abbattuti, ma i consiglieri regionali del Partito Democratico, Regione Campania, Partito Democratico che controlla col Presidente De Luca la Regione, hanno chiesto una sospensione di un anno e poi anche una revisione dei metodi di priorità per gli abbattimenti. Saluto Enza Amato, che è consigliere regionale della Campania per il PD. Buongiorno Enza Amato. Saluto anche Michele Buonomo, direttiva nazionale Lega Ambiente. Benvenuto, buon uomo. Grazie, allora, buongiorno. Enza Amato, ci spiega perché questa iniziativa di chiedere una sospensione di un anno degli abbattimenti? Capisco che i soldi non ci sono, ma sa che il tema è molto scivoloso quando si parla di abusivismo. Allora, buongiorno intanto, grazie per l'invito, grazie anche per l'opportunità. Grazie anche per l'opportunità di poter... Sì, facciamo fatica un po' a sentirla, la linea telefonica è un po', riusciamo adesso? A perfezionare. Adesso la sentiamo bene, se ha il viva voce lo deve assolutamente togliere, prego. No, sono con l'auricolare. È uguale, la pregherei di togliere l'auricolare, prego Amato. Eccomi qua, mi sente meglio? Sì, benissimo. Sì. Oh, perfetto. Allora, no, così abbiamo anche la possibilità di chiarire insomma le motivazioni che ci hanno spinto a fare questo appello. È semplicemente una questione di buonsenso, nel senso che nel momento in cui noi viviamo e ci siamo ancora dentro ad un'emergenza sanitaria che, per la quale ci è stato chiesto a tutti gli italiani di restare in casa, cercare insomma di uscire limitatamente alle strette necessità o di lavoro appunto per la spesa nelle settimane precedenti, ma anche adesso insomma siamo tenuti al rispetto di una serie di regole legate appunto al distanziamento sociale. Comunque la casa, il luogo familiare resta la forma di prevenzione principale. Ci è sembrato insomma una richiesta di buonsenso chiedere, quindi fare un appello ad una proroga di 12 mesi. Questo non vuol dire che noi siamo il partito degli abbattimenti, dei non abbattimenti, che noi siamo il partito per i condoni, assolutamente. Sì. Perché ci rendiamo conto, appunto l'ha detto stesso lei, è un tema scivoloso, che dove si è violato, dove si è in insomma, situazioni ambientali che devono essere ripristinate e quant'altro, si debba procedere. Il tema chiedete questa proroga vista l'eccezionalità del momento, l'eccezionalità di prima abitazione, cioè quelle che sono le case di prima abitazione, quindi rappresentano appunto il luogo dove una famiglia di poter appunto pensare ad una proroga di 12 mesi. Questo è quello che abbiamo chiesto. Abbiamo questo è quello che avete chiesto, chiedendo anche ai parlamentari ovviamente del vostro partito politico di appoggiare questo tipo di battaglia politica. Prima di sentire Legambiente, tu Mario, voglio dire, te ne sei occupato tantissimo anche da direttore, è uno di quei temi quando si parla abusivismo edilizio in Italia in cui rientra tutto, io distinguerei anche dalla soffitta. È uno di quei temi su cui io sono feroce devo dirti che ho sempre pensato che far rispettare le regole fosse fondamentale. Devo dire la verità che in questo caso io comprendo che l'idea in questo momento mi sembra anche sensato che ci sia una moratoria. Non so se ci debba essere di un anno o inferiore, non conosco a sufficienza la cosa, però la comprendo. Cioè che gli italiani sanno poi come va a finire, ma non so, vorrei sentire Michele Buonomo di Legambiente, che ovviamente su questi temi anche sono molto molto attenti e feroci nelle condanne. Buonomo, capite l'idea dell'eccezionalità del momento o temete che, come tante cose in Italia, da proroga in proroga, da deroga in deroga, poi non si facciano le cose? Buonomo. Sì, guardi, noi non siamo feroci, siamo rigorosi. In questo caso, più che mai, le parole sono pietre e cemento. Basta l'annuncio di un condono, della possibilità di un condono, che nella nostra regione ripartono le betoniere, glielo garantisco. In qualsiasi posto, tutti disparati. Sì, cioè lei sta dicendo che basta dire così, sospendiamo un anno, che la gente inizia a dire beh, costruiamo, tanto poi dopo arriveranno... Sì, non tanto la gente, ma il malaffare. Sì, considera che in questi giorni si stanno intercettando spedizioni di rifiuti dai porti campani verso l'Africa. È bastato riaprire appena uno spiraglio di normalità, quella che non ci piace, quella precedente al coronavirus, e già si è ripartiti. Ora... secondo i nostri calcoli, in cabane sono gli edifici abusivi, non il piccolo abuso, oltre 60.000. È l'equivalente di una città come Caserta. Mm-hmm. Io credo che l'idea di un condono in altri paesi sia proprio inesistente. Immagini lei, noi prendiamo a modello Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania, come vivibilità urbana. Allora, l'abusivismo va contro le regole, non solo le norme, ma contro le regole del buon vivere, la possibilità di pianificare città, contesti diversi. Allora, noi dobbiamo uscire da questa crisi con un rilancio profondo dell'economia, ma non dell'economia illegale. Ora, siamo d'accordo, io credo che nessun magistrato in questo momento ordini l'abbattimento di una casa dove ci stanno una famiglia, ci stanno una famiglia più famiglie. Non è questo il punto. Guardi, sì. Il problema vero è che gli abbattimenti vanno talmente a rilento che, altro che moratorio, il problema è che fra 10 anni saremo ancora lì. Ma questo è un po' il timore. Lei è insamato. Allora, questo è il punto. Poi noi siamo per un'ipotesi. Si stanno dando grandi investimenti, faranno grandi contributi per la ristrutturazione. Allora facciamo ripartire una economia, un'edilizia sana. Facciamo finalmente un piano casa che sia veramente la casa per quelli che non sono tantissimi, non sono la maggior parte degli italiani, ma c'è un congruo numero di persone che non avrebbe accesso. No, io vorrei chiedere a questo. Enzo Amato, lei ci prende l'impegno a nome del Partito Democratico in campagna, allora, che davvero non è uno di quei metodi per dilazionare gli interventi. Lo voglio chiarire perché insomma io capisco le argomentazioni del dottore Bonomo e mi rendo perfettamente conto, io sono una che si batte per l'ambiente, quindi ci mancherebbe, per le regole ci mancherebbe altro. Il tema è proprio questo. Allora, intanto noi prima del coronavirus eravamo impegnati nella stesura di una legge del governo per il governo del territorio, quindi la regione era impegnata a fare questo. E so che c'è l'intenzione di procedere verso questa direzione, quindi tutta quella partita che è la pianificazione territoriale, il consumo del suolo e anche, diciamo così, appunto la razionalizzazione e la buona gestione del fabbisogno abitativo sono in questa norma di sistema che noi stavamo e continueremo a mettere, speriamo di portare a casa adesso spero con il prolungamento della durata della legislatura si possa raggiungere questo obiettivo. Quindi c'è questa intenzione di mettere ordine e soprattutto di mettere insieme non è un modo per una in questi anni ha permesso anche che gli abusi si perpetrassero. È assolutamente volontà del nostro partito chiedere un condono o, diciamo così, spingere a sovvertire, ad aggirare le regole, a fare in modo che si faccia nuova edificazione abusiva. Semplicemente per quelle che sono abitazioni di prima necessità, tutto il resto sta fuori dall'appello, a noi non interessa. Un anno di sospensione, un anno di, come dire, di chiamiamolo così, un anno di attesa. Allora, no, è chiaro e vedremo. Io intanto vi ringrazio, Enzo Amato, PD Campania, e Michele Bonomo, Lega Ambiente, perché staremo a vedere, Mario, e poi dopo insomma le promesse dei politici, l'unica cosa è registrarle e vedere, verificare. Ti sottopongo questo e poi ci spieghi oggi la storia che campeggia nella tua newsletter, ma non solo, anche nel Venerdì di Repubblica. Ieri ho prenotato un tavolo per 4 in un ristorante delle Langhe, ci scrive Giampiero, il proprietario era commosso, occorre reagire e dare un segno, scrive questo ascoltatore. Bisogna soprattutto in favore di chi lavora. Devo dire che anch'io qui nel mio quartiere vado a prendere, che ne so, da asporto una cosa, un'altra, è un modo così per cercare di dare un segnale. Tu ti senti tranquillo, hai voglia di andare al ristorante? No. Pensi che sia importante farlo per dare una mano a chi ha un ristorante o un bar, eccetera, eccetera? Sì. Detto questo, il governo faccia, le regioni facciano tutto quello che è possibile per metterci nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza. È tutto qua. Questo sì. Allora, io vorrei chiedere agli ascoltatori chi conosce, chi ricorda questo nome. Andrea, forse lo conoscevate come Andy Rocchelli. Andrea Rocchelli, forse è un nome che a qualcuno ricorda qualcosa. Mario Calabresi ci ha scritto una storia, ha fatto un podcast e vorrei che ce ne parlassi. Ma Andy Rocchelli era un fotografo italiano di Pavia, molto bravo, che aveva una grandissima, che lavorava come spesso fanno i fotografi italiani per testate internazionali, Time, New York Times, e che aveva una caratteristica di lavorare molto vicino alle vittime dei conflitti. Cioè andava in Libia e anziché raccontare la prima linea raccontava degli studenti che andavano a combattere contro Gheddafi. E 6 anni fa, il 24 maggio del 2014, era un sabato, è stato ucciso da un colpo di mortaio a Sloviansk, dove in Ucraina, dove c'era sul fronte, diciamo, del combattimento tra i filo ucraini e quelli che volevano la secessione, presente, quelli che volevano andare, certo, con Mosca. E lui era lì a fare che cosa? A raccontare la storia di alcune famiglie che vivevano proprio più o meno dove era diventata la linea del fronte e che avevano la colpa di essere intrappolate e che la notte mettevano i bambini in una specie di dispensa, in una cantina, insieme ai vasi di marmellate, di sottaceti, per proteggerli, per conservarli, mi viene da dire. E allora lui, in uno di questi suoi, mentre raccontava ed era lì, in una giornata in cui non c'erano combattimenti, non c'erano spari, a un certo punto, insieme ad altri fotografi, e un fotografo francese, William Roghelone, e il suo interprete che viaggiava con lui, un dissidente russo, Andrei Mironov, iniziano a essere presi di mira da questa collina e gli sparano addosso finché lui e Mironov vengono ammazzati da un colpo di mortaio. Io di allora mi era rimasta questa fotografia che vi dicevo dei bambini in questa dispensa, che come fossero sottoterra, e mi aveva colpito questa foto allora. Poi sostanzialmente mi sono dimenticato questa storia, e questa storia è passata un po' nel dimenticatoio italiano. Noi ci sono delle storie di cui parliamo spesso, tutti sappiamo. Nonostante ci sia stato un processo in Italia, c'è stato una condanna. L'estate scorsa ho scoperto che c'è stato un processo che non è arrivato sulle prime pagine dei giornali. Un processo incredibile, perché dopo anni in cui non si sapeva niente di questo, la morte di Rocchelli, dopo 3 anni il fascicolo finisce nelle mani di un altro Andrea, un magistrato che si chiama Andrea Zanoncelli, che ha la stessa età, ha la stessa data di nascita di Rocchelli, il quale prende a cuore questa storia. Gli hanno chiesto di archiviare questa storia perché è impossibile fare un'indagine, e lui invece con i ROS dei Carabinieri riesce a fare un'indagine e riesce a trovare una persona che quel giorno era sulla collina e dava gli ordini di dove tirare, dava le comunicazioni di dove bisognava tirare con il mortaio, e scopre da una serie di incroci sui social, coi telefoni, eccetera, eccetera, che questo qua è uno che ha il passaporto italiano, perché è venuto in Italia con la madre ucraina che faceva la badante nelle Marche, e lui faceva il DJ a Rimini. E quindi inizia storia. Io ho voluto ricostruire in questo podcast. Il podcast è una, per chi non conoscesse cos'è un podcast è, come dire, un'inchiesta in audio, come la radio, è un'inchiesta in audio. In questo caso io ho fatto un'inchiesta di 4 puntate che si chiama La Volpe Scapigliata. La Volpe Scapigliata era il nome di Andy, era lui, dagli scout. Era il nome che gli avevano dato i suoi amici scout, perché dicevano che era una volpe, era selvatico, era del bosco, e scapigliato perché era uno scapigliato, arruffato, e quindi io ho fatto un viaggio cercando i genitori, la sua compagna, la mamma di suo figlio, perché pensate che il giorno in cui Andy muore suo figlio compie 3 anni, e quindi domenica prossima, non questa, quella successiva, il 24, suo figlio compirà 9 anni, Nico. E allora io ho messo insieme tutti quelli che lo conoscevano, 16 voci, ho viaggiato a cercare di ricostruire tutto. Per ricostruire questo viaggio il padre mi ha aperto il computer e mi ha dato gli audio che Andy mandava raccontando le fotografie che stava facendo, certo, e ho ricostruito in 4 puntate questa storia dall'inizio. Ma tutto questo dove si ascolta? Perché voglio dire, intanto c'è la newsletter e la storia anche oggi dalla mia newsletter ricevete. Sul mio sito, che sai che è mariocalabresi.it.com, si può sentire la prima puntata gratuitamente. Le altre si possono sentire anche queste gratuitamente, perché io l'ho fatto con una piattaforma che si chiama Storytel, che è una delle piattaforme più attive sugli audio, sui podcast e sugli audiolibri. E Storytel, per chi passa dalla mia pagina, dai social, eccetera, eccetera, sì. Offre un 30 giorni di abbonamento, diciamo, gratuito per poter ascoltare. È una sorta di promozione che viene fatta anche per far conoscere l'importanza dei podcast. Io in questo caso faccio questa storia. Che devo dire che in America sono molto più diffusi che da noi, in altri paesi. Moltissimo. È un nuovo modo di raccontare. Sì. Sai che a proposito di America, ti lascio con questa considerazione che non abbiamo fatto in tempo a fare, sarebbe interessante però da fare. C'è tutto il dibattito sul vaccino, l'hai seguito? Guardate che è un tema importantissimo, certo. E profondo, cioè la Sanofi, multinazionale francese del farmaco, ha detto con il proprio amministratore delegato inizialmente, siccome l'America investe nella ricerca, avranno per primi il vaccino. Figurarsi Macron, ovviamente se sollevato a dire che la salute è una questione universale e non deve sottostare alle leggi del mercato, e poi insomma è anche francese, cioè com'è che una multinazionale francese dà il vaccino agli americani per prima? Tu cosa pensi? Dovrebbe sottostare alle leggi del mercato? In termini astratti ha ragione Macron, però ti viene da fare una domanda: perché Macron non sta finanziando la ricerca del vaccino come infatti, la finanziano gli americani? Cioè, perché americani, per questo il dibattito, l'Europa, cioè, ha promesso che farà un grande investimento sui vaccini, ma non l'ha ancora fatto. Americani e cinesi stanno facendo una corsa al vaccino e ci mettono i soldi. Gli americani hanno detto a Sanofi, che ha le fabbriche negli Stati Uniti, non è che lo producono in Francia e lo portano là, alle fabbriche, gli ha detto: noi ti diamo non so quanto, se 400 milioni di dollari per aiutare uno dei tuoi filoni di ricerca, però poi quando lo produci qui ce lo dai a noi, non è che lo produci qui e poi lo porti in giro. E da questo punto di vista, se fosse un'azienda italiana e lo Stato italiano ci mettesse i soldi, cosa diremmo? Diremmo, scusate, poi però lo iniziamo a usare in Italia, non è che i primi vaccini li mandiamo in Svezia. Sì, allora, sì, certo. Bisogna anche pensare questo, bisogna pensare che io più che inorridire e piangere, direi in questa corsa ai vaccini l'Europa faccia la sua parte e ci mette i soldi. Esatto, e dopo così le polemiche stanno più a zero. A zero. Va bene, Mario, esatto. Caro Mario, intanto io nel ringraziarti e salutarti, mariocalabresi.it, a maggior ragione la newsletter per sapere tutto di Andy Rocchelli e poi anche il podcast. Vai, sei lanciato nel podcast, hai capito? Adesso ti lanci in questa. Adesso metterei su una radio, poi ci farei concorrenza e poi non verrai più qui. No, vieni con me. Basta. Va bene, io ci sto. Va bene, dove si firma? Come si vuol dire? Va bene. Grande abbraccio a Mario Calabrese. Aspetta, che poi non vorrei che si facessero strane idee. Grande rispetto e stima per Radio 24. Ecco, porca miseria, io già stavo un attimo, niente, è già finito tutto, ancora iniziato, è già finito tutto, va bene, un grande abbraccio comunque buon a Mario Calabrese. A tutti, ciao. Ciao, a presto, andiamo in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, non so perché ti ostini a rovinare l'inno russo. Non cantare più sopra, lascialo così com'è, nudo crudo. Comunque nella sigla manca OC Milan. Milan, tutte le volte che sento l'inno dell'Unione Sovietica mi alzo in piedi e metto la mano sul cuore a destra. Vabbè, dai, non esageriamo. Caro Milan, domanda inutile, sono voti anche quelli delle case da abbattere? Voti, voti, voti. Allora, io saluto Leonardo Manera. Leonardo, eccoci qua, buongiorno. Ciao. Buongiorno, signor Lentofede. Perché abbaiavo? Allora, no. Perché abbaiavo per la definizione che ci è stata però, data sì, da Conte. Però gli aspetta, amici Leo, ti fanno divertire, dimmi. Esatto, posso prima chiederti un attimo. Allora, devo dare questa notizia che mi addolora particolarmente, perché io lo adoravo, ma insomma la notizia di poco fa è morto Ezio Bosso. il pianista che scrivono sui siti sapeva commuovere, 48 anni, affetto da una malattia neurodegenerativa, è diventato celebre qualche anno fa quando andò a Sanremo, te lo ricordi? Ma in realtà lui è un direttore d'orchestra grandioso. Io quando ho sempre detto, quando ho scritto i miei libri, scrivevo i libri, sottofondo mi tenevo Ezio Bosso, cioè, che suonava, non so, mi ispirava, così mi ecco, è una notizia di poco fa. Era malato di SLA. Sì, esatto, una malattia neurodegenerativa, da tempo non riusciva neanche più a suonare il pianoforte, anche se lui soprattutto era un direttore d'orchestra. E, però ecco, così volevo dare questa notizia che è di pochi minuti fa, davvero mi colpisce e mi addolora. Leo, veniamo alla questione. Allora, appunto, ieri c'è stata una sorta di rivolta da parte, rivolta pacifica del mondo degli artisti, perché Conte, te lo faccio sentire, Conte è intervenuto parlando dei 600 euro agli artisti, ha detto questo. Un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare, per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno 7 giorni e vabbè, poi spieghi 600 euro, è questa frase, adesso... gli artisti che fanno divertire. Secondo me non è neanche una cosa così fastidiosa, certo dà l'idea di essere un po' così in una situazione meno importante rispetto a quelli che fanno tutti gli altri lavori, magari secondo me le sue intenzioni erano anche buone, così invece siamo stati visti un pochino come dei cagnolini che fanno divertire, per quello, perché siamo visti un po' come dei cagnolini che fanno divertire, come dei cocker, quindi, con uno schiaffo sul copino, anche tu che mi fai divertire, ting, e quindi diamo qualcosa anche a te, è per quello. Vabbè, il cocker madera, secondo me l'intenzione alla fine non era quella, però magari si poteva trovare un'espressione migliore. Devo dire che molti si sono ribellati. Sai che sai chi l'ha presa malissimo? Carolina Crescentini, anche con ironia sferzante, ha scritto su Twitter, vai a trovarla adesso. Ha fatto un Twitter molto molto salace nei confronti di questa notizia. Chissà se lo becco, eccolo qua. Ha scritto: so contenta che facciamo tanto divertire e appassionare, ma ricordati che senza sto intrattenimento placa emozioni c'era la guerra civile sotto casa. Molto molto puntuta, Carolina Crescentini. Beh, insomma, è vero che in questo periodo in cui non si possono fare spettacoli c'è stata una fruizione forse più del solito anche di tutte le forme di intrattenimento attraverso i social. Tra l'altro sempre fatto in maniera. Modo... Sì, tra l'altro sempre fatte in modo assolutamente gratuito, no? Perché non è che un po' dipende da noi, perché non sappiamo stare senza esibirci, un po' dipende dalla situazione, però sta di fatto che anche quello che facciamo noi una qualche forma di utilità ce l'ha, ecco. Sì, bravi. Adesso accuccia però, accuccia. Esatto. No, io volevo sapere, è tutto a posto dalle tue parti a Milano? Perché a Milano è mezza sott'acqua, è davvero un'esagerazione, una stupidata. Però ci sono quartieri che sono stati un po' coperti dall'esondazione del Seveso, del Lambro in alcuni punti. Tutto a posto, perché c'è il Lambro soprattutto dalle tue parti. Ma qui va bene, ho sentito che soprattutto nella zona nord di Milano, via Lezzara, c'è stato qualche blackout. Il Seveso. Vabbè. Allora, adesso però io voglio salutare un ospite tornando un po' sulle parole. Finalmente in questo momento di grande tensione, secondo me ci sono state delle parole che Silvia Romano ha pubblicato sul suo profilo Facebook, parole che hanno un po' acquietato gli animi, di serenità, di nessun tipo di rabbia, di tranquillità, di vicinanza ai propri amici. Perché su questo si è scritto e detto tante tante cose. Voglio salutare il consigliere delle comunità islamiche dell'UCOI, ne è stato anche presidente, Zedine Elzir, imam di Firenze. Buongiorno Zedine Elzir, grazie di essere qui. Senta, lei di tutta questa vicenda, ovviamente parlo soprattutto della conversione di Silvia Romano, c'è qualcosa di più di tutte che l'ha disturbata oppure no? E attacchi vergognosi a una ragazza coraggiosa solo perché è una donna, perché è una ragazza, perché se era un maschio convertito, abbiamo visto diversi persone che erano stati ostaggi e tornando sono convertiti, sono passati lisci. Non si è detto questa, perché ragazza, sì, questo l'ho detto anch'io, lo sostengo anch'io, e c'è del sessismo sicuramente, il fatto che sia donna, poi giovane e bella, ha scatenato degli istinti un po' bassi. Ma io credo la sua risposta ieri sul Facebook è la risposta migliore. Le scelte intime, una fede è una scelta intima, non si devono giudicare nessune scelte. Poi se uno si converte da questa fede all'altra fede, questa deve essere la sua scelta, non è che dobbiamo andare a interrogare il perché, il come mai, vero, sì, non è vero. Ogni giorno si convertono persone da destra a sinistra, da sopra a sotto e da una fede all'altra. Non dobbiamo, si sa cosa ha fatto stonare la modalità, nel senso che non è, cioè per lei può essere definita una scelta libera, visto che non era certo in libertà? Questo lo risponde la signorina, la dottoressa Silvia. Non dobbiamo noi rispondere alle scelte degli altri. E infatti la sua risposta ieri sul Facebook, secondo me, era il migliore. Niente arrabbiatura, ma la vita deve andare avanti. Poi di sicuro quando si trova in situazioni più tranquille e ha voglia di rispondere a queste domande, io credo noi dobbiamo imparare di rispettare la privacy degli altri, anche se per l'amor di Dio è uno stadio, è diventata una questione non solo intima della persona, ma lasciamo tempi a rispondere a questa esigenza umana. E certamente quando uno si trova nella difficoltà si rivolge a una alla sua intimità, a una spiritualità, e poi il come mai, se è una scelta libera, non è scelta libera, di sicuro questo con il tempo si vede, si vedrà. Forse a molti questa conversione è sembrata strana, perché nell'Islam la condizione della donna sembra una condizione di sottomissione, quindi è anche questo che forse ad alcuni, posto che le reazioni sono state evidentemente sbagliate, ma forse è questo che ha colpito alcune persone, molte persone. Queste persone, perché non conoscono l'Islam, le conoscono per sentito dire. Io per esperienza mia, come imam di Firenze, ma anche come sono stato per 8 anni presidente dell'UCOI, la maggior parte che si convertono all'Islam sono donne, non sono uomini. Quasi 7 su 10 sono donne che si convertono nel nostro paese, parlo, e per questo motivo mancano tanti diciamo strumenti di conoscere l'uno l'altro, ma non per questo che si deve convertire l'uno all'altro. Questo non c'è dubbio. Però un'ultima cosa, Zerina Zirli, la voglio chiedere sul vestito. Sa, è stata tenuta in mano dal Shabab, che converrà con noi, è un gruppo assolutamente radicale, fondamentalista, terroristico nelle modalità in cui vuole applicare la Sharia e usa la violenza come strumento, e si dice non aveva una veste tipica somala, ma aveva la veste che utilizzano le donne guerrigliere di Al-Shabaab, e questo più che altro ha infastidito molte persone. No, questo non è vero. Io prima di essere un imam sono un stilista di moda. Lei vestito i vestiti che si trovano lì, diciamo, non è chi è andato a cercare, credo, ha vestito i vestiti che l'hanno portato a lei. E poi le donne somale si vestono, non tutti, ma si vestono in questo vestito. Allora, non dobbiamo mettere un vestito per una fede o per un gruppo come questi terroristici. Sono vestiti, io credo, sono trovati, l'hanno trovato, portati da lei, e lei l'ha messo in questi vestiti. Poi non vede in quel vestito un messaggio, insomma. Assolutamente no, questa è una casualità, diciamo. Purtroppo noi viviamo nella teoria del diciamo che ogni cosa fatta perché c'è qualcosa dall'alto. Non credo a questa scelta, e lì i vestiti, la maggior parte sono in questa maniera, la maggior parte, dico, non solo di Al-Shabaab, il gruppo estremista, ma la maggior parte delle donne sono fatte così. Sì, sì, sì, sì. No, ma io credo che insomma adesso che ci sia, che si riconquisti un po' quella serenità che davvero io ritrovo nelle, per me, incredibili parole di Silvia Romano ieri su Facebook, nel senso incredibili è in senso positivo, cioè no, non solo Leonardo, tu cosa ne pensi? Dopo tutto l'odio che c'è stato in questi tre giorni, magari uno avrebbe potuto anche togliersi, non dico un sassolino, ma no, invece cioè sono parole di una grazia e di una gentilezza incredibile. Credo che quelle parole abbiano messo abbastanza a tacere ogni polemica, insomma, sì, perché erano parole, cioè, sulle quali non si poteva dissentire. Cioè non, esatto, si poteva, cioè il non dovete litigare per me, non arrabbiatevi, esatto, ma gioiamo per questa cosa, la vita va avanti. Grazie Zidane Zier. Punto molto importante, che spesso noi diciamo i giovani non sono maturi, i giovani non hanno la capacità, invece i giovani con Silvia o Aisha diciamo hanno dimostrato che sono più capaci di diverse persone che si dichiarano competenti. Sì, sì, no, su questo assolutamente condivido e la ringraziamo. Zedine Elzir, ripeto, imam di Firenze, ex presidente di UNCOI, di cui ancora consigliere. Grazie, andiamo anche un attimo. Anche stilista abbiamo scoperto. Anche stilista, abbiamo scoperto stilista di moda, l'abbiamo scoperto così. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Leo, questo è un po' il nostro omaggio a Ezio Bosso che, ripeto, è morto, è la notizia di questa mattina, direttore d'orchestra, compositore, pianista, era del 71, quindi aveva 48 anni, aveva questa malattia neurodegenerativa, abbiamo voluto ricordarlo così in uno dei suoi delle sue straordinarie performance, che però, Leo, ti ricordi, da qualche anno non erano più sue, da un paio d'anni, nel senso che non riusciva, aveva un pianoforte, pensami raccontare una volta, con dei tasti che erano agevolati, nel senso che bastava una pressione per le sue dita molto faticosamente fiaccate dalla malattia, bastava una pressione minore perché il tasto del pianoforte suonasse, però negli ultimi tempi non riusciva neanche più a suonare. Però faceva il direttore d'orchestra, che era il suo vero lavoro. Io credo che nell'immaginario collettivo, anche per chi non lo conosceva ma l'ha visto magari a Sanremo, sia rimasta impressa, sì, la sua positività che cercava di dare nonostante quella malattia grave, insomma. Sì. Questo mi colpisce sempre le persone così. Che hanno persone che hanno malattie serie e gravi e che nonostante questo hanno il sorriso. Questa è una cosa bella, importante. Infatti, il sorriso di Ezio Bosso credo che abbia colpito tanto quanto la sua musica che rimarrà per sempre. Va bene, Leo, adesso tocca a te. Eccoci. Ah, adesso? Avevo capito che erano le 10, sì. Spostati in avanti, invece no. Sì, se vuoi lo spostiamo in avanti, ma visto che c'è spazio, non so. Allora, questo coronavirus ha evidentemente bloccato tutte le nuove storie d'amore che stavano per nascere. Adesso si sta cominciando a riaprire. Allora io ho immaginato come sarà il mio primo appuntamento con una donna nella fase in cui si riaprirà un po' di più. Arriverò sotto casa sua un po' in anticipo, come mi succede di solito, avrò la macchina sanificata. E poi cercherò anch'io di rendermi presentabile, di essere nel miglior modo possibile. Quando lei scende, sfoderò il migliore dei sorrisi, ma non si vedrà perché entrambi avremo le mascherine. Però sentirò il suo profumo, perché lei si sarà profumata, di quel profumo che quando la abbracci la senti. Ma lo senti anche quando lei deve ancora uscire dal portone. Sentirò il suo profumo che però sarà coperto dall'odore della mucchina, che mi darà un senso di familiarità, di casa. Poi andremo a cena come sempre. Avrò cercato il ristorante giusto, con 4 metri quadrati a disposizione solo per noi. Tra me e lei una barriera di plexiglass, però magari con un buco in mezzo per tenersi la mano, che sarà ricoperta da guanti in lattice. Parleremo, ma ci verrà spontaneo parlare. Non dovremo cercare argomenti con imbarazzo, senza sapere cosa dire. Avremo qualcosa in comune, parleremo solo di coronavirus. Io le verserò da bere un po' di vino attraverso il buco del plexiglass e a un certo punto le nostre mani si incroceranno quasi naturalmente. A quel punto un esponente della polizia locale arriverà e ci dirà di separare le nostre dita. Poi usciremo dal ristorante. La abbraccerò e le metterò il mio braccio destro intorno alla sua spalla, tenendomi a un metro di distanza. E cammineremo per un po' così, cercando di capire se tutte e due abbiamo lo stesso desiderio, cioè di togliere le mascherine. E camminando ci fermeremo ogni tanto a guardarci negli occhi. Se lei mi chiederà di vedere un posto importante di Milano, la porterò in via Casoretto, dove ci sono stati gli ultimi assembramenti di giornalisti per il rientro di Silvia Romano. Poi ci guarderemo indecisi se baciarci. Dentro di noi ci chiederemo: nell'ultimo decreto di DPCM è prevista la possibilità del bacio? Poi forse le nostre labbra si uniranno, ma facendo attenzione a non emettere goccioline, un bacio secco. Senza pensieri, senza rabbia, senza preoccupazioni per il futuro. Un bacio secco ma sincero. E poi le farò una promessa vaga, indefinita. Le dirò: ti vorrò bene finché durerà il coronavirus. Lei mi guarderà in modo interrogativo e poi mi dirà: faremo l'amore quando si troverà il vaccino. Promessa altrettanto indefinita. Cammineremo ancora per un po', guanto nel guanto, e poi le raccompagnerò a casa cercando di baciarla ancora, ma lei, estraendola dalla tasca, mi dirà: tieni, bacia la mia mascherina. E io lo farò, perché di questi tempi abbiamo imparato ad accontentarci del minimo necessario per sentirci meno soli. Poi tornerò a casa mia e guarderò un po' di TV, sentendo dalle pubblicità quanto è bello e confortevole stare a casa in questi tempi, spesso solitari, di coronavirus. Oh. Bravo Leo, dai, con te chiudiamo la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Ci sono temi da affrontare, ascoltatori, nella seconda ora, subito dopo il giornale radio. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori, che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Uno. Nessuno. 100 Milan. Quello dell'Ukraine ha un bel dire che nell'Islam le donne non sono considerate a un livello inferiore. Alino, guarda, non credo a una parola di quello che ha detto il tuo ospite, mi dispiace. Bravo Milan, chiedi pure all'oste se il vino è buono. Caro Leonardo, siamo qua, la seconda ora di un segno 100.000. Devo dire che Zedine Zir non ha colto nel segno dei cuori dei nostri ascoltatori. Però tu ti stai garantendo un lavoro anche per il futuro, diventerai un oste, questo abbiamo capito. Un oste. Chiedi all'oste se no, lavorerai per un oste, sì, ecco. Così. Sì. Chi lo sa, va bene. Allora, adesso voglio aprire la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan con questa vicenda che riguarda l'INAIL, sulla quale molti hanno ricamato, cioè l'INAIL ovviamente sta mettendo in campo tutte delle regole per riaprire le attività. C'è questa vicenda che riguarda i bagnini, i mitici bagnini, che un po' fa sorridere, un po' è stata anche distorta. Sai che ieri Luca Zaia, presidente del Veneto, è intervenuto, è uscita la notizia con il bollino rosso. Ti ricordi il bollino rosso dell'ANSA? Importante. Luca Zaia ha detto e basta sta cosa, i bagnini continueranno a fare la respirazione bocca a bocca, che se poi ho capito è una delle pratiche che si fa ormai raramente. Ma voglio chiamare in causa Gianni Mazzotti, istruttore di salvamento di Rimini, insomma, bagnino. Eccoci qua, Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. Siete pronti intanto, Gianni? Siete pronti? Ci avete capito qualcosa? Sì, cominciamo a capirci qualcosa, sono arrivati un po' di linee guida sia dalla società nostra, la Società Nazionale Salvamento con cui io collaboro e anche dalla Ilcor, che praticamente è uno dei massimi esponenti per quello che riguarda le pratiche rianimatorie dei soccorritori laici e così. Allora, ci puoi iniziare a far capire che in realtà è tutto quella che si potrebbe dire una fake news, cioè una notizia un po' sbagliata, questa idea che l'INAIL dice non dovrete fare la respirazione bocca a bocca, ma verificare lo stato della respirazione osservando il torace, no? E poi ci sono tutte delle spiegazioni. In realtà, se ho capito bene, la respirazione bocca a bocca non è un qualcosa che si fa... Non so se quasi più o del tutto. No, la respirazione bocca a bocca. Allora, se parliamo di spiaggia, dei marinai di salvataggio, ovviamente la respirazione bocca a bocca sono già secoli che non si fa più. Cioè, si fa con i presidi che ci sono a disposizione, quindi mascherine per respirazione artificiale o per pallone ambu e più le ventilazioni, insomma, per fare le ventilazioni in caso anche con della somministrazione ossigeno, qualora l'ossigeno sia una cosa predisposta dalle ordinanze balneari. Quindi quelle scene che abbiamo visto tante volte in Baywatch del bagnino che va a soccorrere a fare la respirazione bocca a bocca e poi l'altro rimette dell'acqua dopo la respirazione bocca a bocca non si vedono più. Cioè, il discorso è che noi abbiamo dei protocolli che sono molto, diciamo, ben studiati, no? E quindi una volta che il pericolante viene preso in stato di incoscienza e non di coscienza, una volta verificato che c'è l'incoscienza, si attuano tutte queste procedure solite di BLS, Basic Life Support, e in più attacchiamo anche il defibrillatore per monitorare le funzioni, diciamo, vitali della persona. Quindi abbiamo tutta questa serie di presidi che non già prima non è che avevamo poi un contatto diretto così con le vie aeree del pericolante, insomma. Quindi che cos'è questo che si sta? È un dibattito sul nulla? Solo forse nella differenza, nella differenza che poi alla fine è una grande differenza, ma comunque sia le nuove linee guida dicono che in pratica quando tu hai una persona incosciente sulla battigia per verificare che ci sia l'incoscienza, diciamo ancora meglio, prima si faceva la manovra gas, quindi guardo, ascolto, sento, cioè tu avvicinavi la bocca, il naso alla faccia, okay, al viso della persona e in 10 secondi cercavi di capire se questa persona respirava. Adesso con queste nuove linee guida è sufficiente osservare se il torace si muove, se riesci a captare qualche segno, diciamo, di respiro, per poi procedere con le altre manovre, quindi ventilazione. La ventilazione con la bocca a bocca non si fa, ma si può usare tranquillamente, sì, volendo, anche un pallone autoespandibile, un ambu, qualcosa del genere, perché comunque non è che entri in contatto tu con la bocca e col naso, chiaro, della persona. Chiaro. Ma lei è mai capitato nella vita di farla in precedenza, la respirazione bocca a bocca? No, perché io ho lavorato tanti anni fa, lavoravo in spiaggia come bagnino di salvataggio e ho iniziato da lì. E già allora, ti parlo di ormai 25 anni, 30 anni fa, avevamo delle mascherine, già avevamo delle mascherine con valvola antireflusso, cioè che praticamente tu è vero che appoggiavi la faccia alla, la bocca alla mascherina, però se i liquidi che emetteva e la persona sotto venivano fuori, tu non te li prendevi in bocca, capito? Cioè, quindi, certo, diciamo che già quella volta c'erano, adesso le cose sono molto migliorate. Poi col defibrillatore, il defibrillatore ti fa l'analisi, lo attacchi e ti fa l'analisi tutto delle funzioni vitali della persona, fa tutto, cioè tu devi solo premere un pulsante se ti dice di premerlo. Il massaggio cardiaco si fa comunque sempre, perché si deve fare, perché comunque se sei un soccorritore il massaggio cardiaco lo devi fare. Gianni, buona estate, ecco. Grazie, sarà un'estate un po' complicata, un po' così. Da come partita sembra proprio di sì, però vabbè, secondo dai. Me avrete più da fare nel non far litigare le famiglie, visto che sugli scivoli si può, abbiamo capito, giocare un bambino alla volta, o sulle altalene, eccetera, per cui dovrete fare i turni anche dalle 10 alle 10:15, Giorgino, dalle 10:15 alle 10:30, Pierino, e via così. Così, e vabbè, caro Leo, sai che molti dicono, l'ho chiesto anche a Calabresi, tu sei nel 50% di italiani che non andranno al ristorante o che andrà al ristorante, si fionderà al ristorante appena avrà l'opportunità? Per la verità non mi fiondavo neanche prima al ristorante, quindi non credo che mi fionderò, però, però se capiterà andrò. Pensate quanto è già insopportabile in situazioni normali, e però, questo tavolo non va bene, non è vero. E niente formaggio, figurarsi adesso. Non mi fionderò, ma invece se ci sarà da andare andrò senza eccessivi timori e patemi d'animo. Ecco. Ma guarda, allora, comunicazione di servizio, la cena d'estate e di Natale di Uno Nessuno 100.000 è sospesa. No, non ci sarà, perché io non posso accettare di vedere delle scene da Leonardo Manera, che già in situazioni normali fa delle scenate patetiche alle cene che facciamo in redazione. Figuratevi adesso. Sai perché lo faccio? Sai perché le faccio quelle scene nelle cene? Per farci divertire. Certo, perché sono l'amico Conte, artista che mi fa divertire. Cuccioletto, vai avanti. Cocker. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, le 10:17 minuti. Ma senti, Leonardo, dobbiamo fare un'operazione però di questo tipo. Mai visto ieri il nostro deputato Belotti, il leghista Belotti, che ha fatto il segno da stadio? Ho visto. Ti faccio il. Dobbiamo chiamarlo. Carmelo e Laura, chiedo per favore, fatemi il numero di telefono di Daniele Belotti. Ciao, sono Alessandro. Allora, ho capito. Cosa cacchio mi hai combinato? A parte, a parte che dici mi sembrava di essere al terzo anello di San Siro, non montarti la testa. Voi San Siro l'avete visto per sbaglio, ma adesso tornate nel vostro piccolo stadio di Bergamo. Cioè, ti sei montato. Cosa ti è che è successo che hai fatto il gestaccio da stadio? Siamo in diretta o siamo in pubblicità? Sì, sì, siamo in diretta, siamo in diretta, siamo in diretta. Già fa una differenza, nota, scafato, si informa. C'è Leonardo Manera che ti saluta, siamo in diretta, sì. Bene, bene. Allora, si fa un caffè. Allora, siamo, a causa del distanziamento sociale, una parte dei deputati è stata portata nel pubblico, nello spazio del pubblico e dei giornalisti, nella tribunetta che sta sopra l'emiciclo, proprio che per uno come me che frequenta gli stadi praticamente adesso di tutta Europa, vorrei sottolineare di tutta Europa, a differenza di qualcuno che ormai è relegato solo ai campionati quelli locali, è belli quando uno dalla parte opposta tira fuori una battuta brutta su un tema che sappiamo bene in Lombardia e soprattutto a Bergamo ha colpito tanti. Quindi tu gli hai fatto il gesto che poi il gesto era esattamente ti faccio un così, questo no, era il gesto. Allora, l'interpretazione autentica non era quella è quella perversa vostra. L'interpretazione autentica era: qualcuno ha trovato il pallone. Sì, il pallone, sì, un pallone un po' largo. Sei veramente un farabutto. Oggi Gramellini ti dedica il suo caffè e non sono parole di elogio, non sono parole di elogio. Ragazzi, caro Bologna. Allora, tu hai la possibilità di vivere la politica o comunque la vita in modo freddo, calcolatore, amorfo, oppure ci metti un po' di passione. Quando ci metti un po' di passione può anche capitare che chiedi a quelli che hai vicino se hanno trovato il pallone che era lì in giro e quindi devi fare un gesto. Vabbè, il gesto del pallone, mamma mia. Ma ricordiamo anche qual era la frase che ha suscitato questa reazione. Esatto, che frase ha detto? Credo che abbia criticato la Lombardia e la gestione, la gestione del coronavirus. Sì. Ma allora, se tu parli però di frontalieri, la domanda è perché mentre parliamo di frontalieri vai a tirar fuori la questione della malasanità, la presunta malasanità lombarda, e quindi fai scatenare immediatamente l'equazione riferita ai 13.000 morti da Bergamo, sono tanti. Allora, se tiri fuori una roba del genere, non puoi aspettarti l'applauso da parte di chi ha vissuto e vive ancora questa situazione. Ci può anche scappare. Che ti mostro il pallone. Io non sono mica uno da salotti. Adesso dice come voi, fighetti. Questa è maniera. Uno che frequenta il centro di Milano, l'altro che frequenta le riviere del Garda, quelle super VIP. Curva Bar Sport, capito? Onorevole della Repubblica Italiana, membro della Commissione Cultura. Daniele Melotti, ti volevo chiedere questo: ma tu hai capito, la Champions League è finita? No, è sospesa? Sto cazzo. Fermati, voi che fosse finita, Si gioca ad agosto, in una formula ad agosto, probabilmente dal 6 al 15 giorni in agosto, con la formula, dovrebbe essere, salvo non ufficiale, formula della Final Eight, quindi a scontri, eliminazione diretta, tutti dovrebbero essere a Istanbul e dintorni. Vuoi vedere che la vince l'Atalanta? E con quella formula qui, mamma mia, cioè guarda, porto 200 al venerdì mattina a 100, ma 100 che dico io, Milan, da voi, quelli porto giù io il giorno ci dopo porta la giù, com'è che si chiamava quello là della foto col Valencia e il Bepu? Ci porta il Bepù me ne porto giù 100 sì, e sì, compriamo, invadiamo la trasmissione 1-100 dell'Atalanta. Io speravo che la Champions League finisse così e invece niente. Ad agosto. Amico mio, non ti conosco, vabbè. Vabbè, dai, ti dobbiamo lasciare, Orbelotto, ti dobbiamo lasciare, stai attento, che poi ti guardano tanto, tutti, stai attento. Tanto, da. Leo, digli non qualcosa tu, stai attento. No, mi fa piacere vedere che nonostante tutto c'è ancora, insomma, voglia di riprendere, ecco. Che poi forse non è mai finita in Belotti. Non è mai finita, sì, esatto. Vabbè, aspetta, dai, lo dobbiamo salutare, anche perché io vorrei sentire Giovanni da Roma e vorrei collegarmi con un commerciante di Torino, perché voglio capire questa cosa della gente che va. Giovanni, buongiorno. Giovanni, ci siamo? Giovanni, siamo tutti con te. Giovanni, è il tuo momento. Giovanni è da Roma, non è da Torino. Roma. Perché sì, no, da Roma, giusto, no, perché poi devo avere un ospite da Torino, allora mi chiedo scusa, okay. Giovanni, buongiorno. Però qualche volta a Torino sarà stato nella vita, no? Assolutamente. No, però il commerciante da Torino, no, perché il mio intervento era relativo, ribadisco, buongiorno a tutti innanzitutto, il mio intervento era perché stavo ascoltando prima l'ex presidente dell'UCA Ucoi. Sì. Che diceva giustamente, perché io non ho nessuna intenzione di polemizzare con niente e con nessuno, che dobbiamo rispettare la privacy di quella ragazza, che non dobbiamo entrare nel mondo, che vabbè, quello non è un vestito, tutto quanto mi sta bene, ma forse ci sfugge una cosa fondamentale. Che si parla di odio, subito odio, omofobia, razzismo, si parla subito di questo e si usano due pesi e due misure. Mi viene in mente adesso un esempio, quell'italiano che è stato decapitato, fu fatta una proposta da un comune, non so qualcosa, di fare una celebrazione, qualcosa, e si scatenò un odio pazzesco, perché quello era andato lì per sua scelta, che nessuno ce l'aveva mandato, e va bene, chiudo l'argomento. Poi siamo in un paese nel quale abbiamo fatto un processo a Berlusconi perché adoperava gli aerei di Stato per spostarsi, dopo aver scoperto i magistrati che gli aerei erano suoi personali e ne pagava lui le spese. Si chiamavano voli di Stato perché? Però polemiche enormi, la stampa, i giornali, i magistrati, tutto quanto. È ancora, credo, sotto processo Salvini perché ha usato un aereo da ministro degli interni, è salito su un aereo della polizia e va bene, mi sta bene tutto, ma possibile che quando si toccano certi tasti non possa parlare più nessuno? Perché adesso ma qualcuno dirà che io sono un razzista. Giovanni, parlare, la telefonata e mi direte che sono un razzista. Sto dicendo che parlare e dire la propria opinione si può sempre. Lei ha notato, si viene violentati. Ma lei qua è a dire la sua opinione, nessuno la sta. Le critiche ci stanno, ma lei l'ha visto anche quanto odio si è riversato, odio che qualcuno odio. Evidente. Ma non sto dicendo di lei, ha letto alcuni commenti. Qualcuno ha scritto che andava impiccata, qualcun altro ha definita neoterrorista. Adesso questi non sono commenti normali. Esatto, cioè un conto è fare le critiche, le analisi sono tutte ben accette. Un altro conto è dire che andava lì chi ha messo delle foto finte, nude, a fianco a dei bei ragazzi neri, alludendo al fatto che andava lì a fare chissà cosa. Dai, cioè, un conto sono i commenti, un altro conto è l'odio puro che c'è e c'è da tante parti, mica c'è solo da una parte. Comunque la ringraziamo Giovanni, io vorrei sentire il polso della situazione da Gianni Lozzi, ecco perché ho detto prima Torino, presidente Assovie Torino, buongiorno, buongiorno. E grazie di essere qui Gianni Lozzi, perché abbiamo visto che molti ristoratori a Torino sono scontenti, hanno manifestato in migliaia, idealmente con una sorta di flash mob. Cioè la questione è, non è che ci ritroviamo da lunedì con la possibilità di riaprire, ma adesso sono coloro che dovrebbero riaprire che dicono ma così non riapriamo. Capiterà. Ma sì, sicuramente i problemi non finiscono con la riapertura, anzi iniziano, cioè nel senso che finalmente da un lato si riesce a tornare a lavorare, quindi a cercare di produrre, dall'altro lato ci sono soprattutto per i ristoratori e per i bar norme ancora talmente stringenti che non entro nel merito perché non sono un tecnico e soprattutto anche noi abbiamo la massima attenzione nella salute pubblica e la sicurezza sia dei clienti che dei nostri dipendenti. Il problema è che comunque con queste norme così restrittive, che comunque con la regione ieri abbiamo avuto un incontro e sono disponibilissimi, anzi si fanno promotori di trovare delle soluzioni che allentino un po' questo, che comunque tengano presente anche la sicurezza, quindi non è che sono fatte così in maniera leggera, perché altrimenti diventa complicato. Mi faceva ad esempio un associato che ha un ristorante dove con le nuove normative stringenti come sono oggi praticamente lui dovrebbe lavorare con 8 coperti, ma da sé che aprire un ristorante con 8 non coperti conviene, non conviene. No, questo è un po' il punto. Cioè, lei legge con preoccupazione i dati, i sondaggi di chi dice un italiano su due in realtà al momento al ristorante non ci vorrà neanche mettere piede. Queste sembrano alcuni dei sondaggi. Ma come posso non essere preoccupato? Cioè, nel senso che effettivamente il problema è anche questo, soprattutto questo, cioè da una parte andiamo ad aprile e siamo contenti, dall'altra parte però la preoccupazione sta nel fatto, a quello che ho detto prima e aggiungo quello che ha detto lei adesso, cioè che comunque la preoccupazione è anche che il cliente non è così disinvolto come lo si era prima e si perde anche un po' il piacere di andare al ristorante, no? Nel senso che frequentare un ristorante è anche il piacere di incontrarsi con amici, fare due chiacchiere, fare aperitivo, poi sedersi al tavolo, cioè tutto un rituale che oggi purtroppo per il coronavirus non si potrà più fare. Lei non ha mai fatto una cena con Leonardo Manera? Conviviale. Potrebbe trasformarsi in un incubo, scherzo, dai, scherzo. Lei ha previsto invece un piano B, nel senso, se ci fossero queste difficoltà lei ha pensato a un modo per fare altro, insomma, per reinventarsi se le difficoltà dovessero essere troppo gravi? Ma sinceramente l'obiettivo adesso di tutti, io personalmente non ho un ristorante, quindi non ho quella preoccupazione lì. Come categoria ci sono molti che si stanno guardando attorno, soprattutto mi vengono in mente alcuni che hanno magari dei bar piccolini, no? I 30 metri, 40 metri quadri, che con 4 metri di distanza vuol dire che può entrare un cliente alla volta. E quindi anche loro mi dicono: ma io a queste condizioni come faccio a riaprire? Cioè, non è che posso vendere un caffè ogni mezz'ora, cioè chiudo ancora prima di aprire, non pago neanche la bolletta della luce. Quindi ci sono persone che si stanno guardando attorno, però il sentimento principe è salvaguardare la propria attività, quindi principalmente oggi tutti cercano di comunque riaprire, cercano di rimettersi in discussione, non pensando di fare altro. Di fare altro, va bene, staremo intanto a vedere, certo tutti siamo curiosi di capire come ripartirà l'Italia da questo punto di vista. Ringraziamo Gianni Lozzi, ripeto, presidente di Assovie Torino. Per esempio il piano B ce l'ho. Se non dovessi riprendere con gli spettacoli, aprirò un ristorante. Penserei anche al piano C. certo, vedi come la fai, la sbagli. Subito è arrivato un messaggio: sì, però Giovanni da Roma, intanto l'avete segato, come telefonata, gli avete tolto la parola. ma siamo qui, cioè la radio è anche ritmo e quindi ci sono interventi di pochi secondi. Cioè, se gli dai la parola, gliel'hai segato, l'hai segato, gliel'hai tolta. Vabbè. Diceva Bart Simpson, diceva Bart Simpson, se lo fai perché lo fai, se non lo fai perché non lo fai. Si sbaglia sempre. Andiamo da Deborah Rosciani, che è una certezza. Va. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma come si fa a dare voce a uno come Belotti, cazzo? Ma come si fa? Ma come si fa? I know. Messaggio diretto per Manera, sono Elia camionista. Ho messo le casette per i pipistrelli, ma non ce n'ho manco uno. Se a lui dà fastidio il pipistrello, me lo vuole spedire a me, il pipistrello, che lui odia tanto. A me serve per il concime. Poi dicono che fa pure bene ai capelli il concime dei pipistrelli. What's the matter, baby? Il pipistrello. Dicono che tenga lontano le zanzare i pipistrelli. Il problema del mio pipistrello che viene a nidificare qui a casa mia è che fa un po' di cacchina che poi rimane sotto sulla poltrona che ho di sotto e va a cadere nella poltroncina che ho sotto. E quindi ogni volta devo pulire la poltrona. Siccome io non pulisco volentieri, invece mi trovo obbligato a farlo. Questo è... Allora, è arrivato un messaggio, chiaramente sono tanti settori e rappresentanti di settori che ci scrivono. Caro Alessandro, nessuno parla degli eventi fieristici, come potrà riprendere questo settore, gli allestitori quando potranno tornare a lavorare, i montatori che fanno. Purtroppo, Leo, credo che siano i settori proprio quelli della socialità che riprenderanno per ultimi, d'altronde è così, non mi spiace non avere una parola di conforto, ma come si fa con queste regole? La parola regole? Di conforto, io richiamerei ancora quello che ha detto il professor Remuzzi l'altro giorno, che ha detto che siamo in una fase in cui il virus si presenta in modo meno grave. Si presenta meno, figurati, l'ho messo su Facebook... Mamma mia, non l'avessi mai fatto. Allora ci stai dicendo che liberi tutti questi messaggi pericolosi? Ma no, non ho detto, no, a parte che io non ho detto niente, ho riportato le parole del professor Remuzzi, che è uno dei luminari mondiali, che peraltro ci sono altre persone, e peraltro se guardate oggi i giornali è pieno di altri medici che dicono: osserviamo dai numeri degli ingressi in ospedali che la situazione è migliorata, e spiegano che i morti di adesso sono persone che sono ammalate un mese fa, che adesso colpisce soprattutto le fasce più giovani in maniera meno grave rispetto a prima. Ma non lo diciamo noi, lo leggete i giornali. Non vuol dire che usciamo senza mascherine a ballare la lambada abbracciati sui tavoli. Però, a me la cosa che stupisce è che quando si dicono le cose secondo i fatti che avvengono normalmente, si è subito accusati di essere una parte o dall'altra. Basta riferire i fatti come sono, insomma, e invece subito si viene aggrediti, attaccati. Va bene. Nel tuo caso è anche giusto farlo, sì. Nel tuo caso è anche giusto ogni tanto. E io, quando succede, dirotto tutta la rabbia su di me, su di te, e d'altronde è così. Allora, Carla Rocchi, Carla, come stai? Carla, presidente nazionale dell'EMPA. Sto bene adesso che vi sento, cari. Oh, eccoci, che bello qua. Dobbiamo farti una confidenza. Allora, quando noi ti chiamiamo, soprattutto in questo caso per parlare dell'orso, sempre l'orso M49 eccetera, che è rinchiuso in una gabbia, mi pare molto stretto, lo facciamo soprattutto perché c'è la nostra Elisabetta Fusconi in redazione che pone in agenda questa tematica, non che non sia importante, non sto dicendo che non sia importante, ma pone dicendo: dobbiamo chiamare Carla Rocchi perché questa cosa dell'orso è vergognosa. È carina, è anche svizzera, però la nostra Elisabetta Fusconi carina è svizzera, mica c'è una contraddizione. No, posso dire a Carla Rocchi che se io fossi lei un po' mi scoccerei un po' se fossi in Carla Rocchi. Perché viene chiamata in causa solo per M49, sembra che non abbia altri. Ragazzi, fatevi ma dire, non siete mica gli unici che mi chiamano in causa. Voi mi chiamate per M49. No, dico solo per, sì, noi solo per M49, appunto. Non è vero, Leonardo sbaglia, perché qui c'è il grande progetto che un giorno faremo, e con Carla è iniziato così, che Carla faceva un programma in radio, non so in quale radio, a dire che la gente chiamava e le chiedeva di tutto, cioè cos'è che ti chiedevano? Ti chiamavano e tu eri ti chiamava una risposta alle vostre domande in tempi remoti. Era su Rai 3, pensate un po' voi. La gente chiedeva qualunque cosa. Il bello è che io rispondevo con Leonardo, hai una domanda da fare? Qualunque, è una domanda che ti frulla per la testa, Leonardo, forza. E Callarocchi allora risponde. Io vorrei, sì, per esempio, sapere nel mio condominio come si può ottimizzare la rotazione sacchi dell'immondizia, perché io non so mai quando devo portare esattamente l'immondizia un giorno o l'altro. Ecco, questo. Come prego, si può ottimizzare? Carla Rocchi, risponde. Sì, è facilissimo, questo addirittura è istituzionale. La raccolta rifiuti fa dei bellissimi volantini, addirittura con la grafica. Per chi per esempio non sapesse nemmeno leggere, come forse il caso di Leonardo, c'è scritto oggi, pattume domani, plastica dopodomani. Basta mettere queste cose e il problema è risolto. Capito, anche ironica. Tiè. Cioè, io vorrei sapere, ma riprende il campionato di calcio, Carla Rocchi? Io vi posso dare notizie su quello femminile. Oh, ottimo, va bene, dai. Anche, ma vi vedo la quello. Prossima volta, prima mi informo se mi devo dare notizie serie. Capito. Allora, in realtà, Carla Rocchi, no, l'abbiamo chiamato, c'è questa notizia di l'orso, l'abbiamo catturato in Trentino, l'orso M49. Bravi, bravissimi, questi veramente dei ragazzi proprio volontarosi, esemplari. Ma sta lì, sta bene, è vivo, lotta insieme a noi. Ma io muovo le palle in un modo esagerato a Storso, ma io dico, vogliamo dirci una cosa, adesso Storso, poveretto, ha la disgrazia di vivere lì, perché mentre in tempi non lontani si pensava che vivere in Trentino fosse un privilegio, adesso questa cosa viene messa pesantemente in discussione. Ma insomma, dico io, gli orsi non c'erano. 20 anni fa si inventano sto progetto di riportare l'orso lì. Perché? Perché gli importa qualcosa dell'orso? Assolutamente no, ma sì, facciamo il circo Barnum. Dopodiché quest'orso fa l'orso, cosa deve fare? Fa l'orso, non rompe le scatole a nessuno, non attacca a nessuno, non succede niente. Ma dove bisogna metterlo? In un bel recinto, così vanno i turisti e gettano la monetina, capito? Come negli anni 50, la scimmietta sull'organetto. Ma si può avere questa testa? Io mi domando, si può avere questa testa? Quest'orso sta chiuso in un posto che si chiama Casteller, che è una... Non lo posso dire che cos'è, ma è un recinto per polli. Va bene così che mettiamo l'orso nel recinto per polli? Chi ne guadagna? Stanno perdendo la faccia di fronte al mondo, ma se sono contenti così, noi siamo molto scontenti. Stiano contenti così. Fate un'azione per liberare l'orso, come le vecchie azioni, quelle proprio dimostrative. Non ci sono delle azioni di qualche animalista che vuole... Vuoi credere che stai dicendo una cosa che invece, naturalmente io non svelo i programmi, ecco, ma insomma lo sai che c'è proprio attenzione. Questo in programma. Sono veterani, gente degli anni, gente dell'altro secolo, che raccolte le forze stanno pensando proprio a questo. Quando succede, no, però stupendo. Adesso mi accuseranno di istigazione all'evasione di un orso. Leonardo, aiutami tu. Ti prego, non voglio avere questo tipo di... Non mi sento di aiutarti, sarebbe però interessante avere qualche retroscena, qualche notizia in più da Carla Rocchi, anche se lei non vuole, ma insomma... Non vuole, delle azioni non di vuole. Che tipo? Di sabotaggio? Io prendo l'impegno che se lo so e non scopro il piano di nessuno, ve lo dico. A chi lo devo dire se non a voi, che siete gli amici più cari? Questo mi sembra giusto. Ci segnala, sempre Elisabetta Fusconi ovviamente, che c'è un altro orso che è stato ripreso, affamato, a Livigno, si aggira per Livigno, tre palle di Livigno, stupendo. Sì, l'ho visto anch'io, era fuori da un hotel che si aggirava, sì. Sì, come la mettiamo? E la mettiamo che se all'orso gli si rompono le balle in tutte le maniere, l'orso va cercando il cibo. Quello di mangiare è un, come posso dire, un diritto primario, ma poi quest'orso cosa avrebbe fatto di così terribile? Cioè, tu vedi un orso che aggira. Ma tu giri per Roma, ti trovi di fronte, giri l'angolo, ti trovi di fronte a un orso che gli fai Michele Orsacchiotto peluche. Guarda, io non vedo l'orso perché l'orso a Roma non arriva, forse saggiamente, avendo preso informazioni. Ma a Roma basta andare non in periferia, ma nella prima vicinanza e tu trovi familiari, trovi la qualunque cosa. Se mai sentito di attacchi mortali, gente... Un cinghiale, dai, un orso okay. A me un pochino farebbe paura, ti trovi davanti un orso, no? Ma cioè vai a Livigno, sei lì... Perdonami, caro, ma hai notizie di orsi che abbiano ucciso qualcuno? Allora, qualche aggressione ci sarà stata, adesso se ne va, no. Capito qual è il discorso? L'orso non ha nessun interesse a interagire con noi perché ci conosce, ha capito che brutta gente che siamo. È più pericoloso il pipistrello di Manera, capito Manera? Gli fai bu all'orso. Facciamo una prova, la prova di Leonardo Manera. Se incontri un orso e scendi a Piazzale Udine, no, 3, 2, 1. Io non gli faccio bu, cerco di ragionare con lui, gli dico amico orso, parliamo. Secondo me l'orso fa bu e Leonardo scappa. Secondo me è esatto, è l'orso che se la dà a zampe appena vede Leonardo, dice che personaggio amaro, e se ne va. E scappa al Parco Lambro e si rintana da qualche parte. Va bene, dai Carla, noi ti ringraziamo tantissimo. Dobbiamo mettere a punto quel progetto, una risposta per tutto. Sì, Carla Rocco. Guarda, vi ringrazio molto e sentiamoci presto. Vi lancio una piccola suggestione. Problema: italiani che devono rientrare dall'estero con i loro animali. Quando volete ne parliamo, ok? Guarda, se vuoi, c'è già scritto un ascoltatore, ci aveva detto c'è mio figlio che non riesce a entrare dalla Spagna anche perché ha un cane e quindi non riesce, quindi va bene, dai, per persone che non possono entrare dall'estero perché hanno gli animali, va bene. Alla prossima allora, andiamo a sentire il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Queste normative qua, io sono sempre più convinto che noi viviamo in una nazione barzelletta, Italia barzelletta. Va bene, il nostro ascoltatore evidentemente non so con quale tipo di normative ce l'aveva in particolare. Oh, io sono contento perché sta finendo una settimana e questa puntata è finita e non ha portato grandi polemiche, tutti buongiorno, interventi buongiorno, sono pacati, Giampaolo Garosio, oh, mandiamo Lino del partito super sovranista italiano ti difende ogni giorno di più, questo è il nostro inno, bene che l'abbiamo sentito in sottofondo, molto bene, sono gli amici super sovranisti italiani, allora non mi interrompa, io non l'ho interrotta per due ore mentre stava parlando, lei gentilmente non interrompa lei, altrimenti abbandono lo studio, me ne vado, questo lo dice lei, allora io sono Giampaolo Geppo Garosio, allora abbiamo sentito lì. Io ho fondato il mio partito, Partito Super Sovranista Italiano, PSSI, lo pronunciamo Pissi. Allora, Pissi. Io sono uscito dalla Lega. Perché sono uscito dalla Lega? Perché Matteo Salvini è troppo moderato, è diventato un radical chic anche lui con quegli occhialini. Mm. Per esempio, Salvini è contro il decreto per regolarizzare gli immigrati tout court. Io invece non sono contro il decreto, sono contro gli immigrati e spiego perché. Gli immigrati continuano ad approdare sulle nostre spiagge liberamente e io non posso neanche andare a pucciare i piedi sul bagnasciuga di Rapallo perché è in un'altra regione. Garosio non ci sta. Perché l'italiano può neanche cambiare regione e l'extracomunitario può venire da un altro continente addirittura. Chiaro, è vero o non è vero? Da un altro continente in mare a farsi il bagno. Ci sono dei poteri occulti che hanno creato questa emergenza e adesso governano le nostre vite senza che nessuno glielo abbia consentito, gli abbia chiesto. Poteri occulti, vi ho chiesto forse io di controllare la mia vita? No, grazie, per quello ho già mia moglie con cui da tempo mantengo anche la distanza di sicurezza di un metro. Allora, oggi sono qui per dire la verità. È chiaro? Chi dice Garosio dice verità, parola di Geppo, e Geppo non mente, perché come dice il proverbio, Geppo non mente, come dice il proverbio, bere per dimenticare, sì, è sempre meglio che dimenticarsi di bere. Allora, quindi partiamo che dalla domanda che tu... lei non mi interrompa, abbandono lo studio. No, ho capito, calcique, ho capito, ma se lei dice dei proverbi che non esistono, del popolo, cioè, vabbè, non è, lei non lo popolo, conosce, sì. Se lei non conosce un proverbio non ha detto che non esista, ignoranza non habet factum, ricordiamolo. Allora, scusi? Quindi partiamo dalla... Sì, anche tu. Questo è l'inno del partito super sovranista italiano. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Ignoranza non ha di factum. Allora, oh, partiamo bene dalla domanda che tutti ci stiamo facendo. Tutti, chissà qual è, tutti, cioè proprio ho visto anche il direttore, allora, Fabio Tamburini, no, passare e dire: ho questa domanda, chi, da fare a Garozio. Sì. A nomi, abbandono lo studio, abbandono la trasmissione. Trasmissione magari, già discutibile, sì, peraltro. Prego. Chi ha messo in giro questo virus? Chi ha messo in giro questo virus? Sì, questo, allora, se lo chiedono in tanti, sì. Chi dice Garozio dice verità. Allora, qualcuno dà la colpa alla rete 5G che indebolirebbe il nostro sistema immunitario. Non è vero, è una fake news. Perché se usare internet fa male, è una fake news. Allora, non bisogna diffondere fake news come fa lei, è chiaro? È chiaro? No. Lei è re delle fake news. Allora, se lei vuole diffondere delle fake news, cambi organo di informazione, non faccia il giornalista. Ma magari, non fa Radio 105? Come, allora, non mi faccia citare in latino, in latino, non mi faccia citare in latino Asinura Verbis. No. Allora, è una fake news, perché se usare internet fa male, allora mio cugino Gianni, che passa tutte le giornate su YouPorn, a quest'ora sarebbe morto. Non si tratta solo di 5G, bisogna dire le cose come stanno. Gli italiani sono stufi di sentirsi raccontare delle balle. E allora ve lo spiega Garozio. Ve lo spiega Garozio. Il virus non si è diffuso per colpa delle 5G, ma per colpa di tutto quello che si nasconde dietro quelle 5G, e adesso ve le spiego. E adesso ve le spiego. Uno, G come Germania, che come sempre decide per tutti gli altri, perché come dice il proverbio, nella Macedonia puoi metterci quello che vuoi, ma alla fine senti solo la banana, cioè la Germania. Questi qua, i Deutschland, sono famosi per i sandali con le calze e l'Oktoberfest. Dimmi tu se c'è da fidarsi, dargli in mano l'economia d'Europa a questi qua che vanno in giro con i sandali, magari dopo che sono tornati dall'Oktoberfest. Poi, G come Germania. Corsa, G, allora Germania. Lei mi vuole interrompere, no, abbandono lo studio. Siccome io sto dicendo usquetante Carolina Butere, pazienza. Allora, se lei, Carolina mia, usquetante Carolina Butere. Se, allora, lei è il principe dell'ignoranza, ce le dice le altre G? Ce ne sono altre quattro. Allora, se lei mi vuole tagliare, principe, non c'è tempo per le altre quattro. Non c'è tempo per le altre quattro. Non c'è tempo per le altre quattro. Garozio, una è Garozio, forse. Non c'è tempo per le altre quattro. Non so, Manera, mi dispiace, è tornato Manera? Mai c'è tempo Manera per le verità. No, non c'è tempo per le altre quattro. Leonardo, vuoi concludere? Te. Verità, il volume si abbassa. No, basta, giù il microfono, Garozio, via, basta Garozio. Leonardo, quando Leonardo, la verità saluto. Viene basta, a basta, via, a lunedì.